Cotori, come dici sti parole, amore? Me parli o cuore me, cuore mio anta Cotori, non te scurda, capace da poco le Cotori, non te scurda. Cotori, Cotori, che per a dicere, sto parlando,